Corso basico di Kabbalah, parte 1, file audio 17. Qual è il senso della vita? Il gusto della vita? Quando ancora non ci pensi, quando è il tempo di farlo? Quando pensi al gusto della vita, non puoi essere triste. Quando non pensi alle cose terrene, non puoi essere triste. Diventi triste perché pensi alle cose terrene. Questo è molto speciale, avere la gioia, sentire la gioia, senza alcuna contraddizione, non si può andare oltre. Quindi inizia a lavorare, inizia il lavoro dall'interno. Veniamo tutti da un'anima, come se fossimo strutturati da una roccia, l'anima di Adam. La consapevolezza, la coscienza di Adam era enorme. Poteva vedere ogni cosa che era nel mondo. Poteva supervisionare l'intero piano della creazione. Lo splendore del piano di creazione. Certamente c'è il peccato. Questo è presente anche nel piano. Il problema è: avevamo fatto e ancora facciamo il peccato un po' troppo grande. Perciò la via del ritorno è così lunga, ma alla fine tutti noi torneremo. Qual è il senso di tornare allo stato di Adamo? Dobbiamo tornare indietro, ma ora in modo molto consapevole. E non come abbiamo fatto in passato, come un bambino. L'intera storia è dentro di noi. Dobbiamo attraversare e unirci nella gioia. Supponiamo che una persona sappia già cosa deve fare secondo il piano della creazione. Dice che lo sa già come i Paesi Bassi saranno alla fine del piano di creazione. Quando uno sa questo, può lavorarci su, può portarlo a termine. Una reazione verrà dall'alto. Cosa dovrebbe divenire dei Paesi Bassi? In nessun modo vivibile. Nessuna tolleranza. Quella non è consapevolezza, è solo temporanea. Ci sarà un genere di comunità, un tipo di relazione come un vivere dei Paesi Bassi. Ognuno di noi pensa che stiamo vivendo, ma questo è un pensiero interiore. Viviamo ancora al di sotto del livello della vita reale. Il livello della vita inizia solo quando tu puoi, in verità, amare un'altra persona. Solo quando sei sincero puoi davvero amare qualcuno anche solo per un po'. Anche questa piccola parte è un segno che stai arrivando al livello della vita, nel senso che stai lavorando spiritualmente. Quando puoi amare un'altra persona, è un segno che stai crescendo. E prima inizi con questo lavoro, meglio è. Dall'interno, amare ogni persona diventerà la realtà. Cosa intendo con questo diventerà realtà? Immagina di avere una panetteria. E il tuo vicino ha un negozio di alimentari. Non ti preoccupare più di tanto. Forse andrai in bancarotta. Non devi tenerti occupato con come sopravvivere. Supponiamo che ti ammali e che il tuo vicino ti dica: ecco alcune verdure, e quando tu stai meglio ci sarà un periodo in cui puoi aiutarmi. Allora puoi andare a dormire ogni notte senza preoccupazioni e alzarti ogni mattina a pace e gioia, senza preoccupazioni per il domani. È possibile quando noi stiamo dando ad ogni altro. Allora nessuno deve avere preoccupazioni e il vero vivere può iniziare. Non pensare che questa sia un'utopia. È possibile quando iniziamo a lavorare su noi stessi. Ognuno di noi deve lavorare sul suo interiore, perché tutti devono essere corretti. Quindi non c'è gelosia o invidia, o qualsiasi pensiero l'uomo possa avere. Ma per il momento non è possibile. Siamo ancora pieni di gelosia. Ma quando saremo tutti corretti, la gelosia sparirà. Allora siamo capaci di essere senza invidia. Saremo in grado di concedere. Non c'è più alcuna ragione dopo che sentirci migliori di un'altra persona, perché ogni persona sarà corretta. Noi non abbiamo bisogno di sentirci meglio. La carne sarà andata via, solo lo spirituale è là. Domanda di uno studente: là ci sarà la morte? La mia risposta: dopo 6.000 anni, nessuno morirà. Cos'è la morte? Non ci sarà più morte. Ora stiamo imparando ciò che ci viene dato per farci capire. Non posso andare oltre, ma posso parlarne un po'. Questi 6.000 anni, 6.000 correzioni, ci sono per noi per correggere noi stessi, fino alla venuta del Messia. Messia. Più tardi impareremo di più su questo e non sulle cose che abbiamo imparato a scuola. Ma dopo i 6.000 anni arrivano i 7.000 anni. E questo è il periodo in cui tutto sarà a posto. Non c'è nessun cabalista che stia parlando di questo. Lo sanno. Sanno anche che ci saranno 8.000 anni e 9.000 e 10.000 anni. E quando le 10.000 anni, quando le 10.000 anni o correzioni saranno finite, la morte, il male, non ci sarà più. Prima verrà la fine di tutti i desideri morti. Cosa significa questo? Prima tutti i tuoi desideri si ribelleranno. E questo è necessario per liberarti dai tuoi desideri morti. Il desiderio è morto quando vuoi ricevere per te stesso, solo per te stesso. Ma è impossibile parlare di questo. Non possiamo dire una parola su questo. C'è un principio. Quello che tu non sperimenti, non parlarne. Non possiamo parlare di questo perché non abbiamo ancora il sentimento. Se dovremmo parlarne senza il sentimento, allora stiamo speculando. Come sai, già è tutto sul tuo sentimento. Devi suscitare il tuo sentimento. Quando uno viene prima alla Kabbalah, pensa di poter andare avanti veloce. Ma non nella Kabbalah. La Kabbalah riguarda la qualità. Voglio che tu senta, anche per un breve momento, che senti. Senti davvero che le porte del paradiso sono aperte per te. Non hai bisogno di mangiare tutto il pane per averne il sapore. Basta mangiare una fetta. Quando mangi solo una fetta di pane, conosci il gusto e basta. È lo stesso nello spirituale. Non è necessario leggere tutte le 2000 pagine di test Talmud Eser Sfirot. È sufficiente quando lo assaggiai. Forse hai il gusto dopo aver letto 100 pagine. Non è difficile. Non è l'intenzione della creazione sovraccaricarci di affari intellettuali. Ciò che è eterno è semplice, facile. Il genio sta nella semplicità, nella totalità, perché tutto ciò che è nella totalità è vero. Devi sapere questo e non parlare con la bocca di qualcuno. Ogni movimento interiore in cui ti sforzi per la totalità e non per la diversità, andrai avanti. Questa è la progressione secondo il piano della creazione. Il grande Yehuda Ashlag aveva scritto Talmud Eser Sfirot, Tess, e ha scritto molte opere per renderlo più facile per noi, in modo che potessimo arrivare alla comprensione. Abbiamo bisogno dei suoi scritti. Nessuno, o forse una o due persone, potrebbero arrivare alla comprensione. Noi non sapremmo come venire alla salvezza. Yehuda Ashlag lo aveva reso semplice per noi in modo che ogni persona dovrebbe capire, sperimentare. Sappiate che ogni persona può venire alla comprensione. Quello di cui hai bisogno è l'onestà, è l'intenzione di lavorare fino all'ultimo momento della tua vita. Devi sapere che la vittoria è garantita. Le proprie vittorie, la vittoria del tuo ego è quindi non distruggere il tuo ego mai. Anche quando sei nella situazione più terribile, quando hai la sensazione che non possa essere peggio, anche allora devi lottare per la fusione con lui e rimanere nella gioia. Qualunque cosa accada, devi avere gioia, e questo è molto difficile. Non ti dico che è facile, ma devi giustificare. Hai bisogno di giustificare l'intero sistema di controllo. Quindi avrai successo. Giustifica il sistema di controllo dell'unico creatore di forza. Quando succede qualcosa di brutto, correggilo. Devi purificare il tuo interiore. Vedilo come un processo di apprendimento, e questo può essere fatto solo quando giustifichi. Cosa intendo con la giustificazione? che provi gioia anche nelle cose che non ti piacciono. È possibile liberarsi del potere del creatore? Questa è una domanda retorica. È possibile liberarsi anche quando uno non crede nella sola forza creatrice? Hai bisogno di fiducia. Supponi che resti fedele, per esempio, al tuo modo naturale. Un giorno arriverai alla comprensione, in un modo o nell'altro. Ora sperimenti disastri fino al momento che tu entri nella giusta direzione. Allora sei diventato consapevole. Perché non dovresti scegliere prima per il bene? Ogni giorno, ogni momento e ogni situazione hai la possibilità di vivere o morire. Anche nelle situazioni più banali abbiamo questa scelta. Scegliere per la vita significa fondersi con l'unica forza creatrice, che significa diventare una persona adulta, spirituale. E con la morte intendo che tu sai che ho il mio proprio esistere. Accanto al Creatore io ho la mia propria aria. Ti stai separando e sai che perderai. Abbiamo tanta paura di perdere. E questo è sussurrato nelle tue orecchie dal tuo ego. È il tuo ego che ti dice questo. Senti per te stesso. Non fidarti della forza più superiore. Separati. Questo è l'ego, e quando ascolti l'ego certamente perderai. Devi fonderti con l'unica forza creatrice, allora ti ritroverai. Guarda un bambino. Metti un bambino in un ambiente positivo. E guarda come sboccia il bambino. E quando un bambino è cresciuto in un ambiente completamente diverso, si sente separato. Cosa ne sarà di lui? Sai in anticipo che andrà male. Certamente c'è una nuova possibilità per lui in un'altra generazione di venire a correggere. Sempre perditi cura che stai in un buon ambiente. Quando sei fedele al tuo interiore fiorirai, quindi è così importante evitare persone che fumano e o bevono. Anche un po', sappi che loro non sono ancora pronte con il loro interiore. Non è ancora arrivato il tempo, e quando sei vicino a loro, ti sentirai anche triste. Il pericolo è così grande. Tu pensi, va bene, non è così male, ma sappi prima che tu ti comporti come loro. Non puoi limitarti. Tu hai bisogno della fiducia, prima, e la fiducia deve crescere. Ti senti triste e inizi a mangiare e bere. Prendi un drink quando ti senti bene. Quando prendi un drink quando ti senti bene, puoi goderne. Provi piacere. Tu vedi quanto può essere semplice. C'è un altro potere che ti impedisce di entrare in paradiso? Spesso agiamo in questo modo. Non ho la forza, il mio ego è troppo forte. Non ho la possibilità di lavorare su me stesso. Quando ti stai comportando in tal modo, sappi che in quel momento tu pecchi. In questo momento ti stai indebolendo. In un certo modo stai considerando il tuo ego. Mai lasciare che sia la rinuncia considerando l'ego. Quando vieni alla Kabbalah, devi lavorare su te stesso e noterai che io non sto parlando di magia. Ogni momento è un momento di lavoro su te stesso. In ogni situazione hai la possibilità di rimanere vivo e morire. Quando ti senti triste, sai di essere morto. Certo può esserci un momento di tristezza, ma all'interno della tristezza devi provare uno scintillio di gioia, perché questa scintilla ti aiuterà. Questa scintilla è la fonte del vivere. Per quanto mi riguarda, non riesco a capire le persone che sono tristi. Quando ti senti triste, stai sprecando il tuo tempo prezioso. Non c'è tempo per la tristezza. È un peccato. È la tua vita che ti è stata data e ti stai ancora lamentando. Puoi restare un bambino? Quando ti senti triste, sei separato al 100%. Dal Creatore. Stai separando te stesso dall'unica forza creatrice. Egli non si separerà mai da se stesso. La qualità del nostro egoismo sarà sempre lì. Il buono c'è sempre e tocca a noi renderci credibile. Guarda Guarda, ogni persona avrà un momento di tristezza, una sensazione che non sta bene da dentro. Ma sai che ci sono sempre due condizioni, l'una contro l'altra. Questo è come il Creatore aveva creato il mondo. Quando ti senti triste, non pensare, ok, io non mi preoccupo come mi sento, perché questo è barare a se stesso. Impareremo nella Kabbalah che ci sono due lati. Quando sono nel momento in cui non mi sento bene, allora devo sapere al 100% di certo che questo momento è buono per me. Questo è un segno. Devo fare dei cambiamenti per cambiare questa triste situazione. Questo è il momento per cambiarlo nella gioia. Perché? Quando ho un momento triste e so che questo momento è buono per me, significa, in questo momento c'è qualcuno sopra di me che mi mostra questa condizione. Qualcuno mi sta mostrando, qualunque sia la situazione, è un bene per me. Quando posso fare questo, mi sento soddisfatto. E di certo, in quel momento, posso pensare che certo ci sono sempre due lati. Quando pensi solo alle cose buone, agisci ancora come un bambino. Ci sono due lati e uno bisogno di loro e ho bisogno di loro per riconoscere l'ego. Quando guardo in basso, vedo la forza severa dell'ego e quando guardo sopra, vedo l'unica forza di creazione. E sono io che devo fare la scelta. Non pensare che tuo ego sia il tuo peggior nemico. Anche l'ego può agire come una persona incerta. Come i vestiti interni del Creatore. E sono molto sincero. Guardalo in questo modo. L'ego deve rimanere forte per te. Come potresti altrimenti venire alla saggezza? Vuoi rimanere un bambino? Vuoi ancora essere coccolato? Quando resti come un bambino, non crescerai. Quando pensi che ci sia un brutto potere al di fuori del Creatore, un potere che ti impedisce di fare cose buone, sappi che stai sbagliando molto. Questo questo lo devi sapere. Non c'è altra forza accanto alla forza del Creatore. Metti questo nel profondo del tuo cuore. Quando lavori lentamente, ma con fermezza, e più a lungo lavori su te stesso, arriva un momento in cui non puoi allontanarti dallo spirituale. Puoi confrontare questo con l'apprendimento di una professione, un mestiere. Una volta che l'hai imparato e sei bravo in esso, c'è un altro desiderio? È lo stesso con lo spirituale. Più fai questo lavoro, noterai che è diventato il tuo unico desiderio. Ti innamori dello spirituale. Sarà il tuo unico amore. Non puoi dormire dalla gioia. Tutte le tristi condizioni, apparentemente tristi, la solitudine, tu l'amerai. Avrai piacere in ogni cosa considerando te stesso e il Creatore. Testo. Ed è quello che aveva scritto Baal Shem Tov. Colui che dice che nel mondo c'è un altro potere, una forza oscura, è ancora in linea con coloro che servono altri Dio, Dio. Altri dei. Non sta violando perché ha pensieri di eresia, ma perché sta pensando che ci sono altre forze al di fuori del Creatore. Tess. Sappi, prima che la creazione fosse creata e le creazioni venissero create, la singolare luce alta riempiva l'intera realtà. Non c'era spazio libero nella forma di aria e spazio vuoto. Ogni cosa era piena della singolare luce eterna. Non c'era né inizio né fine. C'era solo la singolare luce completamente omogeneizzata. E il nome di questa luce infinita è Ein Sof. Quando ti manca qualcosa, puoi chiederlo. Sei arrivato ad un punto che è molto importante per te sentire, non solo l'ascoltare. Lentamente, quando continui a leggere, lo sentirai perché tutto ciò che hai letto e leggerai, non è da me stesso. Ho usato essere me. Me è me, ma nulla di più. Quando verrai in contatto con il vero spirituale, noterai che ci sarà un cambiamento. E questo cambiamento è meraviglioso. Quando anche tu scopri la fusione con il Creatore, sperimenterai qualcosa che va oltre la tua comprensione. Ma per ora siamo come figli che dicono: io. Ma attraverso la fusione con il Creatore ci sarà un cambiamento. Dal momento che tu gusti veramente lo spirituale, sappi, la tua paura scomparirà. Non c'è più paura di dare la tua opinione. I tuoi pensieri terreni, opinioni, idee. Cosa è per te la verità? Cambierà. Questa è la reale vittoria. Non c'è più grande sfida e non c'è più grande piacere dopo lo spirituale. Sai perché? La spiritualità non ti ingannerà mai. Nel nostro mondo saremo ingannati, ma non nella vera spiritualità. Perché? Ora sei d'accordo con l'istruttore lui stesso, con l'artefice di ogni cosa. E questo è meraviglioso. Ti consiglio di leggere Tess molto lentamente. E non solo lentamente, ma con un atteggiamento molto rispettoso. Ci sono persone che dicono: oh, questo è facile, ma il manuale per la purificazione interiore è difficile. Quelle persone vivono in un mondo sottosopra. Tess è qualcosa che non puoi capire. Senza guida non c'è persona che possa arrivare alla comprensione di Tess. Sai perché? Perché tutti noi facciamo immagini in noi. Tu stai guardando alle tue proprie immagini e non ci sono immagini in Tess. Ogni cosa è integra, è immutabile. Si parla di luce e la luce sta facendo questo e quello, ma in realtà non c'è movimento nella luce. Cosa significa questo? Lentamente ti insegnerò. E tutti noi raggiungeremo il nostro obiettivo. In un certo modo è una dimensione molto diversa del vedere. E tutti noi impareremo a vedere questa nuova dimensione. È stata lì dal giorno in cui sei nato. Devi solo svilupparlo e questo è grandioso. Il testo di Ari. La comprensione del tempo spirituale sarà spiegata molto chiaramente in la riflessione interiore, alla fine della prima parte di Tess. Lui non inizia nel principio con il tempo spirituale, ma dopo. Questo non è il momento giusto per questa discussione. Era primo. Secondo. Quindi la luce si è diffusa dall'essenza del Creatore. Sappi, tutti i nomi e le definizioni usati nella scienza, nella conoscenza della Kabbalah, non parlano dell'essenza del Creatore, stanno parlando riguardo la luce, cosa era stato diffuso dalla sua essenza. Non c'è una sola parola sull'essenza Atzmutò del Creatore. E questo riflette la legge di quello che uno non può comprendere, sperimentare. È impossibile essere nominato. Ricorda questo e non fare questo errore. La luce riempì la luce singolare, l'intera realtà. È la luce che viene dalla sua essenza. E questo è singolare, la luce alta senza alcun grossolano. È là nella sua originale forma. Più tardi c'è il grossolano e alla fine vediamo l'essere umano. Di quale legge stiamo parlando? Stiamo parlando della legge ebraica e queste sono le leggi dell'universo. Non della religione ebraica, ma queste sono le leggi, solo le leggi dell'universo, che valgono per tutti. Quando leggi la legge ebraica, non pensare che sia le leggi del popolo ebraico. Il popolo di carne e sangue. Le leggi ebraiche sono le leggi dell'universo. Non ha nulla a che fare con il popolo ebraico che trascura queste leggi. Colui che vive secondo le leggi dell'universo è ebreo. Certamente il popolo ebraico hanno tracce nelle loro anime, ma finché trascurano questa legge spirituale, non sono ebrei. Ogni cosa è secondo questa legge. Quello che ti dico. Ciò che leggi qui è basato su queste leggi e non ha nulla a che fare con qualsiasi filosofia. religione o comprensione terrena. Una volta che si arriva più in alto, noterai che tutto è uno. Ci sono cose che non sono facili da spiegare attraverso la Kabbalah, ma quando si arriva più in alto, devi sempre andare più in alto. Anche tu verrai all'unità e non avrai più alcuna discrepanza in te. Alla fine tutto arriverà all'unità. Esaminiamo questa frase. Quello che non puoi capire, tu non sai nulla. È impossibile dargli un nome. Devi sapere, nella Kabbalah non stiamo parlando proprio così. Non si parla di cose che non si sono sperimentate. Quel che è scritto da un kabbalista è aver avuto l'esperienza. Questa persona aveva raggiunto una certa altezza, posizione, e da questo punto di vista che sta parlando? Queste erano persone che si erano purificate per poter sperimentare la luce. È colui che segue e cerca di immaginare questa situazione, colui che si apre al suo interiore, pronuncia una preghiera e ha il profondo desiderio di arrivare alla comprensione di ciò che stanno dicendo, arriverà senza dubbio all'esperienza spirituale. Qual è l'intenzione di questo? La Kabbalah dice che non c'è scomparsa. Cosa o come è il nostro atteggiamento? Qual è il cambiamento? Sappi, tutto è circa l'esperienza per venire al sentimento del vero spirituale. Stai leggendo questo testo, ma non è abbastanza. Devi vivere secondo quello che stai leggendo. Devi cambiare il tuo atteggiamento. Per venire in conformazione con quello che stai leggendo. Non c'è una sola parola che ti dice diventa un monaco. Quando lo fai, stai solo fuggendo lontano da te stesso. Devi fare ciò che sta nelle tue possibilità, qualunque cosa tu puoi fare. Non ci sarà mai il desiderio dall'alto e non c'è mai stato questo desiderio. Tu farai qualcosa che non rientra nella tua portata. Ma in ogni momento devi vincere sul tuo ego. Loro non ti danno mai da sopra cose che tu non puoi fare. Non c'è straordinario nel lavoro spirituale. E quando arrivi a questa comprensione e lavori duramente su te stesso, ti sarà concesso che il Creatore si allontani da te. Ma perché? Ora puoi sviluppare la tua forza e scalare la collina da solo. E non con l'aiuto del Creatore. Noè, camminava con il Creatore, così è scritto nella Torah. Camminava mano nella mano con il Creatore, come un bambino. Ma Abramo, camminava, è scritto anche nella Torah, camminava davanti al Creatore. Il Creatore stava camminando dietro di lui. Abramo aveva la forza di camminare davanti a lui. Da solo. Aveva il suo proprio potere e non vide il Creatore. Ma cosa significa questo? Aveva fede oltre la sua comprensione. Lui non aveva bisogno del Creatore perché egli camminasse accanto a lui. Quando il Creatore è accanto a te, non sai mai come essere da soli. Quello che stiamo imparando è come raggiungere il vero spirituale. Quando leggi Tess e ti porti in conformità con esso, sarai salvato. Non c'è altro salvatore. Con la lettura stiamo portando noi stessi in conformità a ciò che stiamo leggendo. E poi la luce splende, dovuto all'accordo interiore. La luce splende solo in questi luoghi che sono conformi con l'interiore. Pensa ai raggi di Röntgen. La differenza è che stiamo parlando di raggi e i raggi spirituali sono molto più forti. Questi raggi stanno facendo incisioni dentro di te. E dentro di te c'è un posto. La luce sta facendo incisioni in questo posto vuoto. E questi sono i luoghi che sono in accordo con la luce. Poi che cosa? È la luce che crea in te determinati buchi, spazi interni. Spazio? Cos'è lo spazio? Hai bisogno di questi spazi in modo che la luce possa essere ricevuta e vissuta. Prima di avere questi spazi non c'era esperienza. E qual è la tua esperienza? unità, totalità, pienezza. Senza spazio non c'è esperienza. Ci possono essere solo esperienze negli spazi che sono incisi dalla luce. Solo là. Un altro posto non è adatto. Ma perché no? Non sono purificati attraverso la lettura. Il tuo atteggiamento, eccetera. Ma incisione sarà fatta inosservata. Luoghi vuoti, spazio interiore, e puoi andare in un posto simile e sperimentare l'interezza, l'immutabile. Perché all'interno di te sono formati gli spazi attraverso la luce con il livello corrispondente. Stiamo lavorando sulla conformità tra il nostro interiore e la luce. Non avere qualsiasi interesse per la luce fuori di te. Perché? La luce fuori di te non è comprensibile. Avere interesse nelle cause esterne della luce ti provoca immagini e non ci saranno sentimenti, nessuna esperienza. Non sperimenterai la forza di creazione. Puoi venire a questa esperienza solo quando lasci che la luce faccia incisioni dentro di te, buchi più profondi, nel modo in cui la luce vuole farlo. Non pensare che tu hai qualche parola in questo. Non puoi dire voglio questo o quello. Come facciamo a sapere questo? È di diritto alla persona che è già venuta alla santità, lui che era ricevibile per la luce, per lasciare che la luce facesse tutte le incisioni, che la luce voleva incidere in tutti i tipi di livelli. Così allo stesso tempo, mentre stai leggendo questo lentamente, gli spazi aperti sorgono in te. E oltre a questo, puoi sempre andare in questo posto. Supponi di essere nella miseria. Ora tu sai in quale posto andare perché dentro di noi, di voi, c'è un posto già inciso dalla luce. Non pensare che la luce possa entrare in te senza le incisioni. L'unica cosa che devi fare è essere ricevibile per ricevere la luce. Lascia che la luce faccia incisioni dentro di te. Quali sono queste incisioni? Comprensioni più elevate, più comprensione, più conforto. Tutto è nuovo tipo di piacere spirituale. E non si può paragonare questo con i vostri piaceri terreni. Non c'è paragone in questo mondo con questo piacere. Lascia che la luce incida il posto più piccolo dentro di te e riceverai sempre di più. Yuda Ashlag era completamente inciso dalla luce. Non aver paura di essere inciso dalla luce. Fai te stesso ricevibile per la luce. Quindi devi limitare i tuoi desideri terreni. Più limiti i tuoi desideri terreni, più velocemente arriverete allo spirituale. Invece dei desideri terreni, ricevi la forza spirituale, l'eterna forza, la vera esistenza. Ma dove faccio l'esperienza di questo? Nello stesso Kilim, lo stesso spazio interiore dove un tempo c'era il tuo desiderio terreno. Dove una volta c'erano quelle cose banali. Ma ora, nello stesso luogo, in questo Kilim, esattamente in questo luogo, proverai piacere spirituale. Prima il tuo interiore amava essere in una discoteca, ma ora il tuo interiore amerà questo piacere spirituale. Tu sai, devi desiderarlo. Tutte le limitazioni che fai per te, in un modo che hai già assaggiato, hai avuto l'esperienza. Fai spazio per le nuove esperienze spirituali. Hai già sperimentato i piaceri terreni. Perché ancora e ancora? Non ci è scomparsa. Puoi continuare perché l'esperienza era lì. Perché non investire nella vita eterna? Devi sapere questo. Hai l'obbligo per fare questo. Ok, puoi aspettare fino a un'altra vita. Ma devi arrivare a questo punto. Quindi, perché non ora? Sarai il primo. E non dovrai aspettare la miseria che ti spinge a venire al bene. Tutti questi terremoti, tsunami, non saranno più necessari. E a causa nostra è di noi, perché la maggior parte di noi non è disposta a lottare per il proprio obiettivo. Devi lottare per il tuo obiettivo personale. Qual è il tuo obiettivo? Lascia che sia l'unità e lo scorrere insieme con il Creatore. Non c'è nient'altro in questo mondo che possa aiutarti. Nessuna soluzione tecnica. Naturalmente tutte le tecniche che abbiamo al giorno d'oggi era meravigliosa. Ci viene dato in modo da non dover essere in qualche modo schiavi. Colui che sta dicendo che tutte queste cose tecniche come computer e televisioni sono cattive, sta camminando in ritardo. È lo stesso con internet. Sappi che tutto viene dal creatore e per favore fallo in un modo molto grato l'uso di esso.